Il 28 giugno Berlusconi firma il rogito della nuova casa a Lampedusa. Dopo la verifica, infatti, dovrebbe avere molto tempo libero. Lampedusa. Un'isola da scoprire. Lampedusa. Scopri la tua magica Italia.